Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Gli anni 70. La mia generazione, quella nata negli anni a cavallo della caduta del muro di Berlino, conosce questo decennio solo per la musica, la moda, le imprese sportive, i film divenuti cult. Ma i ragazzi degli anni 80 e 90, poco, pochissimo, sanno della storia che potremmo definire ufficiale. Forse perché una storia ufficiale, riconosciuta, condivisa, ancora non c'è. Li chiamano gli anni di piombo. I nostri genitori, i nostri fratelli maggiori ci hanno raccontato il clima di paura in centro, gli scontri in piazza, le scritte sui muri. Ma molto è stato rimosso. Parlare di certi argomenti può risultare a volte doloroso, a volte persino sconveniente. Silvia Giralucci, giornalista padovana, aveva 3 anni quando il 17 giugno del 1974 suo padre Graziano e Giuseppe Mazzola, entrambi militanti di destra, vennero uccisi dalle Brigate Rosse nella sede padovana dell'MSI. La sua storia personale e il suo bisogno di risposte l'hanno portata a realizzare Sfiorando il muro, un film documentario alla ricerca dello spirito di un decennio. Protagonista la città di Padova, le sue strade, le sue piazze, la sua università. Il film sarà proiettato al Multisala Pio X di Via Bonporti a Padova nei prossimi giorni, dal 6 all'11 dicembre. Domenica sera 9 dicembre dalle 21 l'incontro aperto a tutti con l'onorevole Giovanni Bachelet, figlio di Vittorio, già presidente dell'Azione Cattolica e una delle vittime più illustri di quegli anni di violenza. Ma ascoltiamo una clip del film. Gli anni 70 per me sono la scuola elementare, i giochi con le amiche, nascondino, prendersi, pallaguerra. Di quel che accadeva intorno a me conservo poche immagini sfocate. Agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro. Avevo una vaga paura degli uomini con i capelli lunghi, delle manifestazioni, delle scritte sui muri. Una, di fronte a casa di mia nonna, nella periferia di Padova, diceva: fuori i compagni del 7 aprile. Perché fuori? Perché compagni? Con noi Silvia Giralucci, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Ecco, prima di questo film pubblicato per Mondadori, L'inferno sono gli altri cercando mio padre, vittima delle BR nelle memorie condivise degli anni 70. Perché c'è questo bisogno di fare chiarezza, di far emergere una memoria condivisa? Gli anni 70 sono stati una ferita profonda non solo per chi come me ne è stato direttamente colpito, ma anche per tutta la società che in quegli anni ha vissuto anni di grande paura e che assieme alla violenza si sono portati via anche grandi ideali, che è paghiamo ancora le conseguenze di quel periodo. E le ferite, per essere chiuse, per cicatrizzarsi, hanno bisogno di essere disinfettate. Aver chiuso quel periodo in un cassetto senza averne affrontato le ragioni, i motivi, senza essere arrivati a riconoscere anche chi stava dall'altra parte della barricata, aver accettato e chiusa la stagione della violenza con i processi che erano necessari, con le condanne che erano necessarie, però senza aver affrontato il nodo storico, fa sì che quel periodo rimanga aperto e gli scontri che nei giorni scorsi per le piazze d'Italia, che assomigliano così tanto agli scontri degli anni 70, ci dimostrano che il nodo della violenza non è ancora ancora stato risolto. C'è bisogno di rifletterci ed è più che mai attuale. Ecco, tra le tante cose che fanno soffrire, a parte insomma questa storia che non è ancora condivisa, anche il fatto che esistano in qualche modo delle vittime di serie A e delle vittime di serie B. Insomma, suo padre non stava nel lato, suo padre stava insomma tra le vittime di serie B, purtroppo. Allora, sulle vittime di serie A e serie B si è proprio recentemente aperto un nuovo dibattito. Quello che posso dire è che mio padre e Mazzola sono state le prime vittime delle Brigate Rosse, un omicidio rivendicato all'indomani, ma che essendo il primo omicidio delle Brigate Rosse, un omicidio rosso, non è stato accettato subito come tale e si è seguita la pista della faida interna, oppure si è addirittura pensato che si fossero ammazzati tra di loro, e solo negli anni, soprattutto con l'omicidio del presidente del Consiglio di Aldo Moro e ancora di più con l'omicidio del sindacalista Guido Rossa, si è presa consapevolezza che il terrorismo poteva anche essere rosso, e ha portato anche molte persone che inizialmente avevano visto come questo fenomeno come la punta più avanzata di una lotta di classe a capire che quella strada non avrebbe portato da nessuna parte. Devo dire che recentemente è uscito il libro di Massimo Coco, il figlio del giudice Coco, che fa un'altra distinzione tra vittime di serie A e vittime di serie B, e sostiene che ci sono le vittime di serie A, che sono quelle che in qualche modo hanno perdonato, hanno cercato di rielaborare la loro storia, e poi ci sono le vittime di serie B che non assurgono agli onori della cronaca perché hanno ancora un atteggiamento, secondo lui, rancoroso. E questo è, io la vedo da un punto di vista completamente diverso, ma il suo libro mi ha dato modo di pensare che forse molte vittime non sono state aiutate come avrebbero dovuto a rielaborare il loro dolore, non sono state assistite dalla società in un momento successivo a quello del funerale, che non si è veramente presa cura di loro. In Italia questo è successo solo recentemente, da quando il Presidente della Repubblica 5 anni fa ha istituito il giorno della memoria, 9 maggio. Ecco, ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Cibernetici, signori degli anelli, orgoglio dei manicomi. Shocking my town, velvet underground. Ho incontrato shocking my town, allucinazioni. Stiamo diventando come degli insetti, simili agli insetti. Nelle mie orbite si scontrano tribù di suburbani, di aminoacidi. Paranoia, mascara, la giornata che finisce mai. Nel ritorno, shocking my town. mai. Non avrò usi dubbi con la torcia se tu noi nelle negli stauni mai. Scappare via dalla paranoia. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti, parliamone. Bentornati cari ascoltatori al Bene di Tutti, parliamone. Abbiamo con noi in studio Silvia Geralucci, giornalista che ha realizzato il docufilm Sfiorando il Muro, un viaggio nella memoria degli anni di piombo. Grazie per essere con noi, Silvia. Grazie a voi. Ecco, adesso ascoltiamo un altro stralcio del film. Questa è la voce di Raoul Franceschi, già appartenente ad Autonomia Operaia, scappato in Francia dopo quel famoso 7 aprile che hai raggiunto a Parigi. Ascoltiamo. Oh, le botte più delle volte era con quelli del PC, a dire il vero, o coi sindacati, quando c'erano le manifestazioni, per esempio, sindacali. Noi ci mettevamo in coda e più di una volta ci volevano bloccare il passaggio. E lì passondavamo e lì botte da orbi con i cosi, con gli Stalin, come si chiamavano. Gli Stalin erano delle mazze da piccone, mm-hmm, tagliate così, con una bandiera rossa arrotolata per far finta che sia una bandiera, ma in realtà era come un manganello. Il servizio d'ordine si mettevano tutti così, col coso così, attaccati uno all'altro. Il servizio d'ordine della CGIL? E anche noi. I due, era come le battaglie romane, cioè c'erano uno schieramento qua, uno schieramento là, con gli Stalin così, e poi giù botte da orbi. Quando tu sei uscito dall'organizzazione, mi pare di capire, prima di scappare, avevi capito che in qualche modo... Avevo capito che per il momento che la rivoluzione non ci sarebbe stata, perlomeno nella forma che avevamo intrapreso fino a quel momento, era senza via d'uscita. Lo vedevo che c'era sempre meno gente, l'eroina che arrivava, anche quello è stato un... e tutti che diventavano tossicomani. Io stesso sono stato eroinomane per 10 anni. Quando sono cominciati ad arrivare i rave party alla fine degli anni 80, inizio anni 90, visto che ho sempre amato la musica elettronica quella, sono entrato un po' in quell'ambiente. È quello più che altro che mi ha aiutato, perché se fossi stato da solo così sarebbe stato molto più duro, penso. Ecco, abbiamo ascoltato la testimonianza di Raoul Franceschi, questo esule, chiamiamolo così, come si definisce in Francia, che ci fa capire molto il senso di disillusione, da una parte anche la buona fede, però anche la comprensione, insomma, di aver fatto parte di qualcosa di molto più grosso di lui. Ecco, con quale criterio ha scelto chi incontrare in questo suo, non dico documentario, ma proprio un viaggio nella memoria, e quale di questi testimoni dell'epoca l'ha colpita di più, le ha dato di più in questo suo viaggio nella storia e anche un viaggio di pacificazione, credo. Allora, io sono nata negli anni 70 e avevo dei ricordi di bambina, che erano le scritte sui muri, una certa violenza, la paura di andare in centro. E però anche crescendo ho notato che di questa cosa era molto difficile parlare, che in città è sempre stato quasi un tabù. Tra il 77 e il 79 ci sono stati, in una piccola città come Padova, quasi 500 attentati, incendiari, bombe Molotov, azzoppamenti e ferimenti di professori universitari. E il 7 aprile del 79 c'è stata una grande retata che ha portato in carcere i vertici dell'autonomia operaia organizzata, seguita da altre due retate di militanti di più basso livello. Questa cosa è stata sempre raccontata da punti di vista opposti, rispetto ai quali un ragazzo della mia età, che non li aveva vissuti direttamente, doveva semplicemente fare un atto di fede. Per chi era stato, diciamo così, colpito, il 7 aprile finiva il periodo di grande paura, la paura di camminare nelle strade, la paura di tornare a casa la sera. Per chi aveva creduto che quello potesse essere l'inizio di una rivoluzione, il 7 aprile è stata la data che si è portata via anche la libertà di manifestare, perché in quel momento è iniziata anche la chiusura della città, la chiusura. E l'ha detto bene uno dei militanti di autonomia che ho cercato, che non poi non si è fatto intervistare, era: rispetto a quel periodo non è che ci fossero due lati opposti della barricata, non condividevamo neanche la barricata. Ecco, io ho sentito la necessità di fare un film che raccontasse questa stessa storia da tanti punti di vista diversi. Dal punto di vista dell'autonomo, che quelle molotov le aveva lanciate, dal punto di vista del professore, che è il professor Guido Petter, che aveva sostenuto i ragazzi nel 68, era stato un partigiano e che nel 77 si ritrova a essere il loro obiettivo. Perché? Perché rifiutava il voto politico, perché voleva che l'università rimanesse comunque un ambiente in cui le regole venivano rispettate. Ho intervistato un Antonio Romito, che era stato un militante della prima ora di Potere Operaio e che poi aveva capito che quella strada non portava lontano e aveva collaborato col magistrato Pietro Calogero. Il magistrato è anche lui uno dei protagonisti. Perché? Perché è uno che per la difesa della legalità ha rischiato la vita. Questo è il tratto in comune che hanno tutti questi personaggi, essere così convinti delle loro idee da essere disposti a morire per queste idee o a rischiare o a vivere per queste. E tutto sommato questo tratto è anche quello che accomuna tutti questi personaggi a mio padre, perché nel fondo c'è una ricerca di mio padre, non tanto del modo in cui è morto, quanto della maniera in cui è vissuto, cioè credere così tanto in un ideale da essere disposti a morire, che è forse quello che unisce tutti questi personaggi e che noi nati negli anni 70 facciamo fatica a capire. Ecco, per noi invece nati negli anni 80 questa storia si vive solamente attraverso gli eco di qualche racconto, di qualche aneddoto, ma nulla più. A 40 anni di distanza da questo decennio terribile da una parte, ma anche speranzoso, ma anche pieno di ideali, si riuscirà mai a far luce, a creare una memoria condivisa, a parlarne degnamente come merita ogni periodo storico, a fare un bilancio, insomma? Diciamo così, una memoria condivisa è un po' un'utopia, nel senso che ciascuno ha la sua memoria, e questo, voglio dire, riguarda i grandi fatti storici, ma anche la vita quotidiana. È difficile che due persone ripercorrano il medesimo periodo con la stessa memoria. Quello che è importante è creare una memoria in cui ci sia anche il riconoscimento e l'ascolto della visione dell'altro, il riconoscimento dell'altro come persona e il suo diritto ad avere una storia, degli ideali e un passato. Ecco, quello che c'era in quegli anni era la negazione dell'altro come persona. Mio padre è morto perché era un simbolo, le persone venivano colpite come simboli e non si riconosceva il loro diritto di essere umani. Ecco, questo invece 30 anni dopo, 40 anni dopo, è doveroso farlo. E come possiamo farlo? Beh, intanto voglio dire, il mio film è un tentativo e spero che sia un modo per aprire un dibattito. Già dopo il libro ho visto dei passi avanti che sono stati fatti. Un ex militante del PC mi ha chiesto di entrare in contatto con un ex militante dell'MSI, Stefania Paternò, che è uno dei personaggi del mio film, e mi ha detto: sai, io me la ricordo in consiglio di facoltà e mi ricordo che noi ai fascisti li guardavamo attraverso, per noi c'erano ma era come se non esistessero. Io ho assistito a una conversazione tra di loro a un tavolino del caffè Pedrocchi, in cui si vedeva proprio che si riconoscevano e scoprivano di aver avuto anche tanto in comune a quell'epoca, ma che semplicemente non si erano nemmeno mai parlati. Ecco, auspichiamo insomma di ricucire queste ferite, di sanarle anche a distanza di molto tempo, è possibile, per poter anche andare avanti magari recuperando gli ideali positivi di questo decennio, che sicuramente ce n'erano, però sappiamo com'è andata. Grazie per essere stata con noi e ricordiamo che il film sarà proiettato nei prossimi giorni al Multisala Pio X di Padova in via Bonporti dal 6 all'11 dicembre, domenica sera 9 dicembre alle 21, l'incontro è aperto a tutti con l'onorevole Giovanni Bachelet, figlio di Vittorio. Noi ci troveremo nuovamente la settimana prossima sulle frequenze di questa radio. Potete riascoltarci sul podcast sul sito di Blu Radio Veneto o potete mandarci una mail per suggerimenti, consigli o segnalazioni a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Canton è tutto, alla prossima. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.